virtù, ma un fratello maggiore non ha sempre ragione, solo qualche anno in più. E so darti il tormento su tutto, è chiaro dovrei finirla, ma per tua disgrazia non ho figli e da lasciarti ai consigli di un pirla. Se ti dicono di alzarti tu siedi, e quando siedono tu alzati in piedi. Non aver fede solo in quello che vedi, insegui i sogni fino a quando li credi veri. E a un certo punto saranno tutti amici tuoi, diranno di amarti per quello che sei, vorranno solo privarti di un pezzo di quello che hai. Ma ci sarà sempre la mamma che ha gli occhi più giovani di noi, con lei sono giorni preziosi, stalle vicino più tempo che puoi. Non importa se modelle o commesse, certe donne si faranno gioco di te. Trattale tutte da principesse, sarai un re. Se ti dicono di alzarti tu siedi, e quando siedono tu alzati in piedi. Non aver fede solo in quello che vedi, insegui i sogni fino a quando ci credi. Ti insulteranno a gran voce e tu ridi, ti chiuderanno la bocca e tu scrivi. Se ti picchieranno e ti imporranno divieti, tu fatti beffa dei tuoi padroni e canta i loro segreti. Hai la mia determinazione a compiere ogni errore prima di imparare, solo a volte non vale il prezzo da pagare. Come quando giocavo in cortile, il mio dovere evitare che tu ti faccia del male, o almeno tentare. Farai di testa tua, seguirai la tua idea, fatti un bel giro di boa, anche se c'è la bandiera dell'alta marea. Un vizio di famiglia come questi consigli di un pirla. Se ti dicono di alzarti tu siedi, e quando siedono tu alzati in piedi. Non aver fede solo in quello che vedi, insegui i sogni che credi, fino al giorno che li rendi veri. A un certo punto, finita la festa, vedrai tutti andar via. Ti accorgerai che quel poco che resta ti basta, ed ecco, quella sarà casa tua. E tu ridi, ti chiuderanno la bocca e tu scrivi. Se ti picchieranno e ti imporranno divieti, tu fatti beffa dei tuoi padroni e canta i loro segreti.